Il terzo anello. Effetto Terra. Di Silvia Zamboni. Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 da Silvia Zamboni. Riprendiamo questa mattina la rassegna dei progetti di eccellenza che promuovono nelle nostre città una mobilità più pulita. Ricordavo ieri che secondo dati della Commissione europea, i trasporti urbani producono da soli il 40% delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto stradale. Sempre i trasporti urbani producono fino al 70% delle altre sostanze inquinanti generate dal settore dei trasporti. Il caro benzina e il caro diesel stanno comunque contribuendo a ridurre gli spostamenti in auto e a spingerci anche a trovare soluzioni alternative. A promuovere queste alternative all'uso dell'automobile contribuisce anche la Settimana Europea della Mobilità, che si conclude oggi. È un programma sostenuto dalla Commissione Europea e ogni anno premia 3 città che si sono distinte particolarmente in questo campo. In attesa di sapere chi vincerà l'edizione del 2008, ricordiamo che a febbraio di quest'anno è stata incoronata come vincitrice dell'edizione del 2007 la città croata di Koprivnica. Seconda classificata è stata Francoforte, terza Arad in Romania. Ma cosa ha fatto la città croata di Koprivnica per essere appunto nominata vincitrice della Settimana Europea della Mobilità? Innanzitutto ha avviato un programma triennale denominato Strade per le persone. Il piano, che è in via di realizzazione, ha previsto di rendere le vie della città accessibili a tutti, quindi sono state abbattute le barriere architettoniche sui marciapiedi, nelle strade, negli attraversamenti pedonali. Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico, si è deciso di puntare sul biodiesel. Rispetto al passato, le certezze sui biocarburanti si sono incrinate perché è emerso, con tutta la sua problematicità, il rischio della competizione tra produzione agricola a fini alimentari e produzione agricola a fini energetici, quindi di produzione di carburanti. Si può però pensare anche a un biodiesel ottenuto non da coltivazioni dedicate. Lo fanno a Graz in Austria, dove il biodiesel da anni viene ottenuto riciclando l'olio usato di frittura, il che risolve anche il problema dello smaltimento degli oli usati, che sappiamo essere molto inquinanti se immessi in fognatura attraverso gli scarichi dei lavelli di cucina. Tornando adesso alla città croata di Koprivnica, la giuria europea che l'ha premiata è rimasta impressionata favorevolmente dalla complessità degli interventi. Si va dalla promozione della bicicletta all'uso responsabile dell'automobile, all'aumento degli spazi verdi, all'abbattimento delle barriere architettoniche, al miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico e quindi a obiettivi anche di tutela della salute dei cittadini. Da notare che si sono tenuti anche dei corsi per insegnare ad andare in bicicletta in città in sicurezza, seminari di formazione alla mobilità sostenibile. E questi sono stati tutti frequentati da molti cittadini. In particolare si è notata però la presenza dei più giovani, che si sono quindi assunti il compito di trasmettere ai genitori quanto avevano imparato per influenzare poi i loro comportamenti e quindi per contribuire a cambiare le scelte dei genitori in materia di mobilità e trasporti a favore di scelte più sostenibili ambientalmente. Il progetto di cui voglio parlarvi ora è targato Germania e ci porta a Norimberga. Si chiama Nürnberg Intelligent Mobil. Norimberga si muove in maniera intelligente. È stato varato nel 2000 e continua tuttora. Da dove sono partiti i tecnici del comune di Norimberga? Dalla convinzione che per ottenere risultati positivi e duraturi con le politiche del traffico occorre produrre un cambiamento nel comportamento dei singoli cittadini. Infatti si erano trovati ad affrontare una situazione piuttosto paradossale. I sondaggi indicavano che gli abitanti di Norimberga si auguravano al di sopra di tutto la riduzione dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico generati dal traffico, però poi continuavano a indicare la macchina come il mezzo preferito per i loro spostamenti casa-lavoro, per il tempo libero, per fare la mega spesa settimanale. A questa constatazione paradossale di chiedere di rimuovere l'effetto in realtà del mezzo di locomozione da loro preferito, si era aggiunta anche la necessità di dare attuazione al piano di salvaguardia del clima. Gli uffici comunali di Norimberga hanno quindi pensato di partire da un punto di vista diverso per modellare le misure adottate fino a quel momento. Tanto più che era emerso che il 60% degli spostamenti fatti in auto per attraversare la città si sarebbe potuto compiere tranquillamente a piedi o coi mezzi pubblici o in bicicletta. Per cui è risultato chiaro che a pesare a favore dell'uso dell'automobile erano fattori soggettivi. I cittadini di Norimberga erano influenzati da mancanza di informazione, dal senso di comodità che esprimeva il poter usare la propria automobile, oppure da una percezione negativa delle alternative alla macchina. Dal settembre 2000 quindi sono state messe in campo decine di iniziative. Tra le più originali, l'esperienza fatta da 20 cittadini, vivere senza auto per un anno, che ha dato come esito che alla fine di questo anno, appunto, un po' meno della metà ha rinunciato definitivamente alla macchina. Altri hanno cominciato ad usarla molto meno, mentre una persona più o meno ha ripreso le abitudini che aveva prima. Poi la gara tra impiegati di banche diverse bancare in bicicletta per vedere quale banca riusciva a far percorrere i propri dipendenti più chilometri in bicicletta nel percorso casa-lavoro. Poi, in collaborazione con la Croce Rossa Bavarese, sono state organizzate anche più edizioni del cosiddetto mercato delle pulci della mobilità, un mercato dedicato alla compravendita e allo scambio di tutto ciò che si muove su ruote senza l'ausilio di un motore, quindi pattini, skateboard, biciclette, bici da cross, mountain bike. Un grande successo l'ha avuto anche l'iniziativa Consiglieri in bicicletta, che ha visto i consiglieri comunali di Norimberga gareggiare tra di loro per compiere il numero più alto di chilometri sulla due ruote. La gara poi si è evoluta in una sorta di derby ciclistico tra i consiglieri di Norimberga e quelli di Dresda. Per ogni chilometro percorso, uno sponsor ha messo in palio 50 centesimi di euro che sono stati devoluti dai consiglieri vincitori per rinaturalizzare un corso d'acqua. Infine, con il Nürburg Rally sono stati coinvolti gli studenti da 14 a 18 anni di varie scuole cittadine. È stata quindi organizzata una gara a squadre che consisteva nel raggiungere nel minor tempo possibile 10 obiettivi disseminati nella città. Gli studenti dovevano servirsi della metropolitana, della tranvia o dell'autobus. Nel tragitto tra un obiettivo e l'altro dovevano rispondere a una serie di 30 domande relative al percorso fatto e al territorio attraversato. Obiettivo dell'iniziativa: far conoscere e rendere appetibili i mezzi di trasporto pubblico ai ragazzi prima che prendessero la patente. Per promuovere l'uso collettivo dell'auto nei percorsi casa-lavoro, la provincia di Bologna ha lanciato un progetto che si chiama «C'è un posto per te». Come funziona ce lo spiega l'assessore all'ambiente della provincia di Bologna, Emanuele Burgin, che è collegato al telefono con noi. Buongiorno assessore Burgin. Buongiorno. Ci dice in che cosa consiste il carpooling? Il progetto si chiama C'è un posto per te. Tutti i dettagli si possono leggere in un sito che si chiama www.autocondivisa.bo.it e l'abbiamo realizzato partendo dalla considerazione che ogni mattina nella provincia di Bologna oltre 500.000 di persone si mettono in strada con la propria auto per arrivare a scuola, all'università, al proprio posto di lavoro. Ovviamente, come tutte le grandi città, ci troviamo puntualmente ad arrabattarci nelle questioni di traffico, di smog. Allora abbiamo deciso di promuovere l'utilizzo dell'auto in modo condiviso con questo progetto che su internet mette a disposizione un sito dove chiunque può iscriversi, chiedere o offrire un passaggio trovando chi fa la stessa strada la mattina e utilizzare l'auto in modo condiviso. Quindi in pratica aiutate l'incontro della domanda e dell'offerta. L'obiettivo è questo. Noi lo vediamo come uno dei tanti strumenti che si può mettere in campo. Ovviamente non pensiamo di sostituire il trasporto pubblico, ma riteniamo che i cittadini possano essere interessati per una serie di ragioni, dall'inquinamento con conseguenti blocchi del traffico al costo sempre più elevato della benzina e quindi dei trasporti. non è un servizio nel senso classico del termine, in cui la pubblica amministrazione investe dei denari pubblici e crea qualcosa che i cittadini possono utilizzare. È uno strumento per favorire l'incontro, cioè fermo restando che ognuno resta padrone della propria automobile, nessuno è obbligato a dare passaggi a chi trova sconveniente, nessuno è obbligato a farsi dare passaggi da chi altrettanto trova sconveniente. Ognuno di noi è molto geloso della propria automobile, chi porta gli animali in macchina, chi è allergico, chi fuma in macchina e chi non vuole sentire parlare, via discorrendo. Ognuno resta padrone della propria auto, noi vogliamo favorire l'incontro della domanda e dell'offerta, fermo restando che appunto la responsabilità poi è dei cittadini. Che risultati ha dato dalla sua introduzione il 9 gennaio di quest'anno? Il 9 gennaio siamo riusciti a partire con il materiale pubblicitario e quindi attraverso i comuni abbiamo cominciato la diffusione. Abbiamo tutt'oggi circa 200 iscritti, siamo convinti che con l'arrivo dell'inverno, quando il traffico aumenta e quando arrivano pure i blocchi del traffico, il giro aumenterà di intensità. Siamo anche convinti che questo progetto vada costruito in modo graduale, avendo a mente che internet è lo strumento, il perno attorno al quale ruota il sistema, ma noi dobbiamo anche andare attraverso i sistemi di mobilità collettiva già organizzati, per esempio dalle grandi aziende o dall'unità sanitaria locale, per dirne una, in modo tale che ci sia un protagonismo dei cittadini. Occorre un coinvolgimento dei cittadini che devono fare questo salto culturale, per cui la propria auto non è più un tempio inviolabile, ma c'è una convenienza a condividerla. Quindi cosa consiglierebbe a un collega assessore di un'altra amministrazione che pensi di realizzare un'iniziativa analoga? Consiglierei di fare il censimento di ciò che è successo in giro per l'Europa, provare a capire chi ha avuto più fortuna e chi ha avuto meno fortuna e per quali ragioni è andata così. La Germania è partita in questo modo, è partito uno dei Länder e poi un po' per volta lo stanno estendendo. Io credo che sia opportuno fare molto lavoro sul territorio, non è sufficiente lo strumento internet, occorre tanta pazienza, tanta buona volontà, però di fronte al problema di inquinamento delle nostre città noi non possiamo immaginare di continuare a raccontarcela con provvedimenti palliativi e nel ventaglio delle proposte che devono essere messe in campo, questa è quella che dal punto di vista del rapporto costi-benefici per la pubblica amministrazione ha senz'altro il potenziale più alto. Bene, assessore, la ringrazio di essere stato con noi e le auguro di proseguire positivamente la sua attività. Grazie. Per ridurre la congestione del traffico automobilistico, in particolare per diminuire il numero dei veicoli in circolazione che sono adibiti al trasporto delle merci nelle ore di traffico diurno, a Barcellona hanno avviato un innovativo sistema di consegna notturna delle merci, un sistema che è stato attivato addirittura su proposta di alcune catene di supermercati. Nel corso di un seminario organizzato nell'ambito di un progetto europeo, ho avuto la possibilità di assistere proprio in diretta al funzionamento di questo sistema presso una sede di un supermercato di una catena Mercadona. Le merci con cui viene rifornito il supermercato vengono consegnate ad un deposito centralizzato fuori città che appartiene appunto alla catena. Da qui poi partono i camion che riforniscono i supermercati nelle ore notturne, precisamente dalle 23 all'una. Quindi sostituiscono i vari furgoni, i camioncini dei diversi fornitori. Alle 4 di notte avviene invece la consegna dei prodotti trasportati con i camion frigorifero. I camion dispongono per lo scarico delle merci di uno spazio a loro riservato che viene indicato da una segnaletica stradale rimovibile, quindi finita l'operazione questa segnaletica viene spostata. Le merci sono scaricate dal camion tramite un muletto che è alimentato elettricamente, quindi non fa rumore. E questo muletto a sua volta è fasciato anche da un rivestimento insonorizzante trasparente che elimina ogni ulteriore rumore. Anche il fondo del camion è dotato di un tappeto insonorizzante. Devo dire che per noi che eravamo presenti non è stato possibile avvertire alcun rumore. Il rappresentante del supermercato che ci ha appunto fatto da guida in questa visita ci ha detto che hanno fatto questa scelta in funzione, diciamo, della tranquillità dei clienti, che di solito vengono disturbati invece dai movimenti di carico-scarico delle merci all'interno del supermercato nell'orario di apertura. È chiaro però che questa soluzione fa contento anche il comune di Barcellona, perché in questo modo si riduce appunto il traffico diurno dei furgoni e dei mezzi pesanti nelle ore di punta. Per parte loro, i supermercati invece hanno a disposizione delle aree per il parcheggio su strada dei loro mezzi, aree di cui di giorno invece non potrebbero disporre. C'è da notare che, insieme ai vantaggi per la riduzione del traffico, quindi meno furgoncini che girano per la città di giorno, c'è un vantaggio anche di natura economica. L'investimento per attivare il sistema all'azienda è costato 30.000 euro. Dopo 5 anni di funzionamento, nonostante i costi superiori per il personale che lavora in orario notturno, i costi di illuminazione, quelli per l'insonorizzazione del muletto e quelli per realizzare questa superficie audio isolante sul fondo dei mezzi di trasporto, mettiamoci anche il training fatto agli operatori, ecco, nonostante tutti questi costi extra, l'azienda registra un guadagno del 10% rispetto ai costi del modello tradizionale di consegna e di carico e scarico delle merci. Questo modello è stato adottato a Barcellona a partire dal 2003. Nel frattempo l'hanno adottato 8 supermercati, mentre in tutta la Spagna sono ormai 150, 4 le catene che lo applicano. È collegato al telefono con noi Carl Ludwig Schiebel, coordinatore dell'associazione Alleanza per il Clima, a cui sono associate più di 1.400 realtà tra città, regioni, province in Europa e 155, considerando appunto anche le regioni, in Italia. Buongiorno Carl Ludwig Schiebel. Buongiorno. Vorrei partire da questa nuova modalità di limitare la circolazione ai veicoli appunto a motore nelle città tedesche, che sono queste zone ambientali, le ha introdotte Berlino, lo fa anche Monaco di Baviera. In che cosa consistono esattamente? Cosa hanno di innovativo? Sono zone dove possono entrare solo veicoli con certe caratteristiche. Detto così non è molto innovativo. Quello che mi sembra importante è che, rimaniamo con Monaco, sono partiti eliminando l'accesso dei veicoli sopra i 3,5 tonnellate nel territorio comunale se non avevano una destinazione dentro il comune, per tenere fuori tutto il traffico di transito dei veicoli pesanti. Secondo passo, che andrà in vigore il 1° di ottobre di quest'anno 2008, è che solo le macchine Euro 2 possono entrare in questa zona ambientale. Questo sono circa 35.000 veicoli di persone che abitano in queste zone, che devono lasciare fuori dalla zona il proprio veicolo. Quindi non c'è deroga anche per i residenti? No, questo è soprattutto anche per i residenti, ma anche per turisti inclusi. Non si entra se non c'è la targa che certifica che questo è un veicolo Euro 2. Questo vale per Monaco, per un territorio di 44 km quadrati. A Berlino sono 88. Adesso tutti i veicoli devono avere questa targa, quella rossa è Euro 2, quella gialla è Euro 3 e da Euro 4 in poi è quella verde. E prima o poi solo quelli con la targhetta gialla possono entrare e prima o poi solo quelli con la targhetta verde. Mi sembra importante che una pianificazione lenta, difficile, e chiaramente ci sono anche state delle resistenze consistenti, per esempio dalle prese dei pullman, dicono se noi non possiamo più entrare con i nostri mezzi questo fa male al turismo, eccetera. Tutti i fornitori dell'Oktoberfest volevano avere una eccezione lì, anche il comune sarebbe stato disposto e il Land di Baviera ha detto no, o tutti o nessuno. E stiamo parlando di limitazioni che valgono tutto l'anno, giusto? Questi sono dei divieti permanenti tutto l'anno, perché il problema esiste tutto l'anno. A Monaco ogni giorno sono 500.000 di veicoli che entrano in città, 500.000 che escono, cioè sono 1 milione di spostamenti dei veicoli. Lì vanno trovate delle soluzioni durevoli e scoraggiare l'utilizzo della macchina e di garantire la modernizzazione della flotta. Questi divieti vengono affiancati in una politica di mobilità sostenibile con l'incoraggiamento di altre forme di mobilità. Lì, per esempio, il comune di Monaco non solo hanno fatto una mappa delle piste ciclabili, ma da quest'anno si può anche su internet farsi elaborare un percorso per arrivare da A a B con la bicicletta, cosa che per la macchina per esempio oggi è una naturalezza. La elaborazione ulteriore dei biglietti unici su tutti i mezzi. E poi anche un elemento ludico, per esempio hanno trasformato sempre a Monaco questa giornata senza auto in due volte all'anno, in una festa di tutta la città dove ci sono i tavoli per strada con la birra, c'è una vera festa, ci sono delle azioni teatrali, culturali. O adesso ogni lunedì verso la sera importanti strade della città vengono chiuse per permettere ai pattinatori di usare queste strade, anche qui con degli stand. Mi sembra che questi sono modi di trasportare il messaggio che un'altra forma di mobilità è possibile e non solo attraverso i divieti. Bene, Carlo Scibella, ringraziamo di essere stato con noi e a risentirci. Un piacere, grazie. In Inghilterra è stato il governo nazionale a promuovere una campagna di città sostenibili nell'ambito del piano nazionale governativo del Dipartimento dei Trasporti. Questo piano si chiama Il futuro del trasporto ed è stato varato nel 2004. Il progetto pilota nazionale vede coinvolte tre città, Darlington, Peterborough e Worcester, che sono state scelte tra 50 città del Regno Unito che si erano candidate per diventare una sorta di vetrina di soluzioni innovative nel campo della mobilità urbana. In attuazione di questo progetto, Darlington, Peterborough e Worcester stanno portando a termine una serie di iniziative che mirano a cambiare le abitudini e i comportamenti dei cittadini per promuovere l'uso dei mezzi pubblici, l'uso della bicicletta o l'andare a piedi. Tutte e tre le città hanno scelto come ingrediente base dei loro programmi una sorta di marketing individuale a domicilio delle alternative alla macchina. In pratica, una squadra di consulenti contatta direttamente le famiglie per individuare le loro abitudini e per fornire informazioni sulle alternative all'uso individuale della macchina. Vengono forniti orari dei mezzi di trasporto pubblico, cartine con la rete delle piste ciclabili già esistenti, oppure si offre la partecipazione a corsi per imparare ad andare in bicicletta in sicurezza. In questo modo alle famiglie viene data la possibilità di ottimizzare la pianificazione degli spostamenti casa-lavoro, casa-scuola senza ricorrere all'uso della propria automobile. E così imparano ad usare il car sharing, incrementano l'uso della bici e gli spostamenti a piedi. A Worcester, in particolare, la campagna promozionale delle alternative all'auto ha utilizzato dei volantini che sottolineano i benefici per la salute che derivano dal movimento fisico. E si è avuta conferma del fatto che è più facile produrre cambiamenti nelle abitudini se si fa leva sul beneficio personale che ne traggono le persone, ossia se i singoli soggetti, le singole persone, riescono a trovare risposta alla domanda «E a me cosa ne viene?», piuttosto che se si fa leva sui sensi di colpa rispetto all'inquinamento e alla congestione del traffico prodotti andando in automobile. Sempre a Worcester è stato avviato anche un progetto nelle scuole che, facendo seguito ai piani di mobility management, quindi di pianificazione della mobilità che coinvolgono gli alunni, ha per obiettivo di promuovere la mobilità in bicicletta del corpo insegnante. Si è constatato che questo coinvolgimento degli insegnanti, quindi il fatto che si presentino a scuola in bicicletta, ha un'influenza positiva sugli alunni, in quanto appunto è l'insegnante che a questo punto si fa anche educatore dal punto di vista della mobilità. Nel settore del trasporto pubblico, la nuova frontiera sul lungo termine si chiama celle combustibili a idrogeno. Un'alimentazione che azzera le emissioni di anidride carbonica, di polveri sottili, ossidi di azoto, perché dai tubi di scappamento esce vapore acqueo. In più sono mezzi silenziosissimi. L'Unione Europea ha cofinanziato un progetto dimostrativo che ha permesso di far circolare tre mezzi pubblici ad idrogeno per ognuna delle nove città oggetto di questa dimostrazione. ossia Londra, Amsterdam, Barcellona, Amburgo, Lussemburgo, Stoccolma, Madrid, Porto e Perth. Migliaia di passeggeri quindi hanno già percorso migliaia di chilometri a bordo di questi mezzi. Cosa impedisce la loro diffusione su larga scala? Lo chiediamo all'ingegnere Andrea Bottazzi, che collabora con la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna ed è uno dei dirigenti della locale azienda di trasporti pubblici di Bologna, la TC. Buongiorno, ingegner Bottazzi. Buongiorno. Ecco, partiamo proprio dalla sperimentazione dei bus a idrogeno. La sperimentazione del progetto CUTE, che ha riguardato 33 autobus in 11 città nel mondo, era una prova di funzionamento, in realtà non di tutto il veicolo, perché la parte meccanica di trasmissione fino alle ruote era di tipo tradizionale di un autobus qualunque, ma il funzionamento delle fuel cell alimentate con idrogeno puro stoccato a bordo. Il tentativo era quello di fare vedere funzionare per molti molti chilometri, e devo dire che il progetto ha ottenuto questo risultato, delle fuel cell con delle potenze idonee a far funzionare un autobus. C'è da dire che questi veicoli non potranno mai essere prodotti così come sono, tant'è che la Daimler ha riaperto l'analisi dell'ibrido che aveva abbandonato qualche anno fa, perché in realtà è fondamentale nel momento in cui si utilizza idrogeno avere una trasmissione completamente elettrica, cioè non avere rendimenti meccanici che fanno degradare percentuali significative di energia. Nella catena energetica, quindi parliamo di economie di scala, di flotta a idrogeno, diciamo la trazione a idrogeno puro ottenuto per elettrolisi non è competitiva, perché la migliore catena energetica l'hanno i veicoli ibridi. Il veicolo ibrido è un veicolo che ha un propulsore termico, un motore termico di ridotte dimensioni, un accumulatore di energia elettrica a bordo e ha una trasmissione completamente elettrica, quindi non ha in mezzo cambi differenziali e quant'altro. Poi l'ibrido può essere fatto funzionare con gasolio, con metano. Ecco, far funzionare l'ibrido con idrogeno vuol dire mettere in questa trasformazione energetica in più un costo energetico dovuto al fatto che ho dovuto produrre l'idrogeno. Quindi l'uso dell'idrogeno si sta ancor più allontanando? Allontanando dal punto di vista delle flotte, secondo me sì, perché diciamo ci sono delle tecnologie che sono per flotta, vedi metano, e ci sono delle tecnologie che non sono idonee per la flotta. Infatti queste flottine erano di 3 veicoli. Per alimentare una flotta tipica da 200 autobus, per produrre l'idrogeno occorrerebbe una centrale termoelettrica. Quindi paradossalmente l'idrogeno avrà senso, e lo avrà secondo me, per l'utilizzo individuale, cioè avrà senso flotte di autovetture a idrogeno dove i singoli proprietari alimenteranno la vettura in modo da produrre l'idrogeno necessario, il giorno dopo la utilizzeranno e via di seguito, ma non c'è necessità di produrre grandi quantità di idrogeno. Nell'auto ad acqua esiste un dispositivo che per elettrolisi produce l'idrogeno e poi le fuel cell che utilizzano l'energia elettrica. Semplicemente viene messo il produttore di idrogeno a bordo del veicolo. Grazie ingegner Bottazzi per essere stato con noi. Grazie. Hai appena individuato un automobilista che sta per lasciare libero un parcheggio. Lo hai puntato fin dalla sua uscita dal portone di casa. Ti sei piazzato in posizione strategica, alla giusta distanza per consentirgli la manovra e per scongiurare al tempo stesso il possibile inserimento di altri automobilisti interessati al posto. Lo segui nei suoi movimenti, molto lenti e flemmatici. Impiega almeno un paio di minuti per selezionare la chiave giusta. Finalmente apri la portiera e sale. Forse ci siamo. Ma che? Comincia a spostare avanti e indietro il sedile. Vorresti dirgli, scusa, la usi solo tu. Che ti è successo? Ti si sono allungati i piedi? Quando ha trovato la giusta posizione, bastava che lasciasse tutto com'era, comincia faticosamente ad abbassare il finestrino. Poi però si accorge che è gennaio e allora lo ritira su. Noti peraltro che non ha neanche acceso il motore. Quanto ci vorrà ancora? Non è il caso di disperare. L'avviamento è imprevedibilmente partito. Ma purtroppo la macchina è diesel. Il personaggio non sembra essere un tipo molto aggiornato ed è certamente convinto che il motore diesel vada scaldato a lungo, come si faceva negli anni 50. Cambia poco, tanto non partirebbe comunque. Ha qualcos'altro da fare. Lo vedi distendersi in maniera innaturale e sparire, come se fosse precipitato all'ingiù. Ti interroghi preoccupato. Che fa? Non torna più su? Che sia morto? E un pensiero, un davvero non bello, ti passa per la testa. Speriamo non sia morto sul serio. Con tutto il tempo che ci mette l'ambulanza, questo posto mi si libera tra minimo un'ora. Ma osservando la scena con più attenzione, ti accorgi che non è deceduto. Si è semplicemente sdraiato. Può essere un guaio? Lo è. Nello sdraiamento ha buttato l'occhio sotto i sedili. Non l'avesse mai fatto. Monete, scontrini, documenti che cercava da anni, costumi da bagno, i puffi di suo nipote, le cicche di sigarette. Inizia perciò l'operazione di sgombero. Sei fuori di te dalla rabbia, ma ormai è diventata una questione di principio, un'esperienza antropologica. Vuoi vedere di cosa è ancora capace il pezzente. Finite le pulizie, l'uomo riemerge. Logicamente spaesato, ha tutto il sangue alla testa, non ricorda nemmeno più con esattezza dove si trova. Il tuo sguardo diventa un raggio d'odio perforante ed egli infatti percepisce un dolore ficcante all'altezza della nuca. Lo hai abilmente colpito, si volta finalmente e ti guarda. Sembra stupefatto di trovarti lì. Qualche secondo per realizzare il quadro completo, poi capisce le tue reali intenzioni. Vorresti parcheggiare al suo posto. Allora ti esprime il suo punto di vista a gesti, data la distanza. Fa un doppio cenno col dito indice in verticale. Significa no, no, no. Poi lo punta verso il basso, indicando più volte a terra. Significa io resto qui. No, no, no, lui resta lì, capito? Ovvio. In macchina lui ci abita. Se è la prima volta che ti succede, prendi nota per il futuro. È un parcheggiato stabile. Quando l'hai visto uscire dal portone, sei caduto nell'equivoco fatale. Non usciva di casa, era andato a parcheggiare l'appartamento. Il ritratto estremo, ma non lontanissimo dal vero, che avete appena sentito, dell'automobilista urbano appostato nella quotidiana disperata caccia al parcheggio, è tratto dal manuale dell'automobilista incazzato di Joelle Dix, edito da Mondadori. Non fa parte degli esempi da imitare che desidero proporvi, è solo un piccolo specchio che ci rimanda, anche per farci sorridere, una tipica situazione di normale nevrosi urbana da traffico, quel tipo di situazione che prima o poi ci ha visti o ci vedrà coinvolti. Anche per questo meglio cercare alternative più sane, per l'ambiente, per i nostri nervi e per il portafoglio, le scelte di cui abbiamo sentito parlare anche oggi. Per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre su Radio 3 Rai, sempre alle 10.50. Ci occuperemo di progetti che promuovono il cambiamento degli stili di vita e delle nostre abitudini quotidiane a favore di comportamenti più ecologici. Prima di salutarci desidero ringraziare per la parte tecnica Fabio Zampa. Ancora a voi tutti l'augurio di una serena domenica. Effetto Terra di Silvia Zamboni. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Regia di Paola Roli. Letture di Donato Graziosi. Il terzo anello @rai.it.